Buonasera a tutti, se volete accomodarvi. Grazie di essere qui così numerosi. Io sono particolarmente lieta di presentare questo importante libro di Chiara Giorgi, credo che tutti la conosciate. È una studiosa di storia contemporanea, da anni collaboratrice della Fondazione Basso e componente del nostro comitato scientifico, attualmente docente di storia delle istituzioni politiche all'Università di Genova. Quella che presentiamo oggi è la prima biografia di Lelio Basso, che ne traccia il percorso intellettuale e politico dai primi anni della sua formazione fino alla straordinaria esperienza di autorevole membro dell'Assemblea Costituente e all'impegnativo ruolo politico di segretario del Partito Socialista Italiano. Una biografia quindi che copre gli anni dall'infanzia fino al 1948. La storia dei successivi 30 anni del Basso intellettuale, politico, giurista proiettato nella dimensione internazionale saranno oggetto di un'altra opera ancora in corso. In questo libro Chiara Giorgi, con la puntuale accuratezza della storica, ricostruisce una vicenda umana, culturale e politica densissima e complessa, difficile da sintetizzare anche soltanto nella successione dei meri accadimenti esterni. Io proverò a indicarli molto brevemente per dare un'idea a chi non le conoscesse delle tappe dei primi 45 anni di una vita a volte vorticosa e frenetica, che tuttavia non ha mai impedito a questo straordinario intellettuale di sviluppare e approfondire un pensiero politico originale sul terreno teorico e sul terreno istituzionale, unito alla costante passione di tradurlo in azione e in lotta politica. E di questo pensiero e di questa attività parleranno i nostri relatori. Il volume dunque parte dalla formazione di Lelio Basso, dapprima influenzata dall'ambiente familiare nella natia Varazze, in un rapporto un po' conflittuale con il padre, un po' eccentrico e autoritario, formatosi agli ideali liberali ottocenteschi, antisocialista, e tuttavia tale che insegnerà al figlio il libero e spregiudicato uso della ragione. In Liguria poi il giovanissimo Basso, all'età di 10 anni, sarà folgorato da un comizio di un socialista dalla brillante oratoria. Trasferitasi la famiglia a Milano, è qui che avverrà la vera formazione intellettuale e politica di Lelio Basso. In primo luogo al liceo Berchet, che fra l'altro nel 2011 lo ha ricordato in una affollatissima assemblea in occasione della celebrazione del centenario della fondazione di quell'istituto. E qui, dicevo, al liceo Berchet, alla scuola dello storico Ugo Guido Mondolfo, lui si forma perché Mondolfo poi lo indirizza alla lettura di Marx e di Antonio Labriola. E qui Basso scopre un nuovo mondo che vede le masse come protagoniste di una volontà democratica di riscatto. 18enne, lui ha la prima tessera socialista e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Pavia, dove si lega a Piero Gobetti e a Rodolfo Morandi e si laurea con una tesi sulla concezione della libertà in Marx. Convinto, come resterà tutta la vita, che si costruisce pazientemente il domani attraverso le battaglie di oggi, si dedica, dopo le leggi eccezionali del 1926, a un intenso impegno politico percorrendo l'Italia e pubblicando saggi sotto lo pseudonimo di Prometeo Filodemo. Nel gennaio del 1928 assume la direzione della rivista Pietre. Nell'aprile, dopo lo scoppio di una bomba alla Fiera di Milano, viene arrestato per la prima volta, ma non ultima, con tutta la direzione e la redazione di Pietre. Dopo violenti interrogatori in carcere, viene mandato al confino a Ponza, dove resterà fino al 1931. Ed è, singolarmente, questo il periodo di più intenso studio. È iscritto alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Milano, dove si reca con la scorta, suscitando la curiosità degli altri allievi. Terminato il confino, rientra a Milano, sposa Lisli Carini e si dedica alla riflessione politica e culturale, che il volume di Chiara Giorgi illustra approfonditamente, e all'attività di procuratore legale, ma anche ad un'attività segreta di organizzazione politica. Viene perciò arrestato un'altra volta nel giugno del 39 e poi rilasciato l'8 di agosto. Trasferitosi con la famiglia a Vedano Luna, cerca di ottenere il passaporto, pensava di andare in Brasile, ma il rilascio del passaporto continua a tardare. sicché nell'agosto del 40 viene di nuovo arrestato, internato nel campo di concentramento di Colfiorito e poi trasferito al confino a Piobbico, da cui ritorna nell'ottobre del 1941. Riprende i contatti con i gruppi socialisti clandestini e riprende anche l'attività di studioso, confermandosi nell'idea della necessità di fondare un partito nuovo, un partito unico del proletariato, un movimento unitario per porre le basi di una società socialista. Dopo una lunga preparazione clandestina nasce così a Milano, nel gennaio del 1943, il MUP, il Movimento di Unità Proletaria per l'Edificazione Socialista, cui Basso offre la principale impronta politica e che egli stesso poi rappresenta nelle riunioni clandestine con il Partito Comunista per una mobilitazione unitaria antifascista. Nonostante i dissensi, il 26 luglio, caduto Mussolini, si trova un accordo per un manifesto comune che reclama dal governo la liquidazione del fascismo. Ma il governo Badoglio adotta al contrario una dura politica repressiva temendo insurrezioni. Sono giorni tormentati anche politicamente da divergenze politiche, ma Basso si convince della necessità di unificazione con il rinascente Partito Socialista Italiano. Nell'agosto si svolge a Roma il congresso fondativo dello PSUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. In un momento difficile per il paese, occupato dai nazisti e privo di una guida istituzionale, con il fascismo di nuovo imperante nel nord, il PSUP, che è diretto a Roma da Nenni, si dichiara favorevole ai comitati di liberazione nazionale, ormai dopo l'8 settembre diventati interpartitici. Basso è contrario, ritenendo la lotta al nazifascismo una lotta di classe. Si dimette perciò dalla direzione del partito, che vede inesistenti in molte province lombarde, che teme diventi un partito di professionisti e di piccoli borghesi. Espone quindi le sue idee intransigenti in un nuovo giornale clandestino e indipendente da lui fondato, Bandiera Rossa. Sono i mesi più pericolosi. Rientrato a Milano, mette al sicuro i figli prima in provincia, poi in Svizzera, e cambiando continuamente nomi e abitazioni, riesce a superare indenne anche le feroci repressioni seguite agli scioperi del marzo del 44. Sollecitato da Pertini, come lui contrario alla svolta di Salerno del PC, rientra nel partito e viene eletto nell'esecutivo del PSUP per l'Alta Italia. Insieme a Morandi presenta nel novembre 44 un documento che ribadisce una netta linea di classe, inconciliabile con gli interessi capitalistici, e ritrova la sintonia con il partito, che, come anche il Partito d'Azione, resta fuori dal governo Bonomi, di cui denuncia le istanze conservatrici, che saranno poi alla base della cosiddetta continuità dello Stato. Rientrato in pieno nella vita del PSUP Alta Italia, Basso lavora attivamente insieme con Morandi per ricostituirne le fila, dedicandosi in particolare al lavoro culturale di formazione dei quadri, soprattutto giovani e operai, per tutta la seconda metà del 44. In Alta Italia cresce nel frattempo la resistenza e si avvicina alla prospettiva insurrezionale. Diventa perciò urgente la ricerca di un'intesa fra i due partiti della sinistra, che si realizzerà come unità d'azione, in particolare nell'occupazione delle fabbriche il 25 aprile del 45. Negli scritti di quest'epoca Basso precisa la sua visione di una democrazia estesa a tutti i campi della vita sociale, vissuta ogni giorno, di uno Stato democratico in cui la classe lavoratrice si esprima finalmente come il suo elemento centrale. L'obiettivo primario però è ancora una volta la formazione di una coscienza democratica. Il 2 giugno del 46 Basso viene eletto all'Assemblea Costituente, nel contesto di un successo elettorale notevole del PSUP, che risulta il primo partito della sinistra. Inizia qui l'impegno a noi più noto, in cui si manifesta quella capacità di invenzione costituzionale, di fantasia giuridica, che insieme alla sua affascinante oratoria è uno dei tratti distintivi dell'originale personalità di questo grande intellettuale. L'attività di Basso all'Assemblea Costituente, ampiamente e attentamente ricostruita con una certa ammirata partecipazione nel libro di Chiara Giorgi, assorbe gran parte dell'attività di Basso per tutto il 1946. Ma egli non dimentica la militanza del partito, che è scosso da dissensi interni. In effetti, fra la fine del 45 e l'inizio del 46 si erano dimessi il segretario Pertini e conseguentemente i vice segretari Basso e Cacciatore. Basso dà allora vita a una propria corrente che intende precisare la natura classista e rivoluzionaria del partito, dove la rivoluzione non è intesa come conquista violenta del potere, ma come processo storico attraverso cui si opera una radicale trasformazione dei rapporti sociali con il conseguente avvento al potere di una nuova classe dirigente. Le elezioni amministrative del novembre del 1946 segneranno un arretramento del PSUP e un'accentuazione delle sue divisioni. Nel gennaio del 1947, mentre si celebra il 25esimo congresso del PSUP, a Palazzo Barberini si riuniscono i dissidenti che poi daranno vita al Partito Socialdemocratico di Saragat. Basso viene allora eletto segretario del partito, che cambia il nome in PSI, Partito Socialista Italiano, e ne tenta il rilancio politico in un forsennato giro d'Italia in cui si manifesta il suo carisma di grande oratore. Nel Partito Socialista Italiano confluisce il Partito d'Azione, ma non anche quella componente di sinistra del gruppo cattolico che Basso avrebbe auspicato. Nel PSI vince allora, contro quella di Basso, confluisce il Partito d'Azione e contro le previsioni di Lelio Basso, in realtà nel 1947 si forma il primo governo centrista. A questo punto nel PSI vince allora, contro la linea di Basso, la linea di Nenni, che è favorevole al Fronte Popolare e alle liste elettorali unitarie con il PC. Nel giugno del 1948, quindi, Basso lascia la segreteria del partito. Si concludono così i primi intensissimi, come avete capito, 30 anni di impegno politico militante di Lelio Basso, che sono ricostruiti nel libro di Chiara con un'approfondita analisi del suo originale pensiero politico. Ai nostri relatori dunque il compito di discuterne di tutta questa vicenda intellettuale e politica assai complessa. Io mi limito a condividere la tesi che appare dallo stesso titolo del libro, che fa dei valori che hanno ispirato costantemente Lelio Basso una felice sintesi. Il socialismo di Lelio Basso significa uguaglianza, libertà e dignità. Credo che questo riassunto confuso un po' andando troppo di fretta, ma vi dà la dimensione di questa intensissima vita politica. E adesso la parola per primo, mi pare, a Mariuccia Salvati, prego. Faccio la storica e quindi comincio per prima. Io mi soffermerò soprattutto su due punti di questo racconto di Chiara Giorgi, ponendole in qualche modo due domande, ma prima vorrei inquadrare la ragione di queste due domande. Parto da un'esperienza recente, cioè dal momento in cui la rivista Parole Chiave ha scelto, direi forse con una certa temerarietà, la parola socialismo come parola di cui valesse la pena di testare ancora la presenza nel mondo contemporaneo. La scommessa, da quanto si è visto nelle presentazioni a Roma e a Milano, sembra riuscita. Ricordo questo episodio perché, preparando il fascicolo, ci siamo resi conto di quanto la scelta di questa keyword si collegasse per noi naturalmente alle matrici bassiane della rivista. Parola chiave del resto è nata nel 1993 come proseguimento di Problemi del socialismo, rivista fondata da Basso nel 1958, e le cui origini, diciamo, vengono ricostruite nel numero Socialismo da Giancarlo Monina, che sarà l'autore della seconda parte della biografia. Che lì stava dunque la forza di una proposta apparentemente retro dell'odierno universo politico italiano. La ricerca intelligente, appassionata e puntuale che Chiara Giorgi ha dedicato alla fase della vita in cui Lelio Basso diventa Lelio Basso, trovo questa formula retorica molto efficace nel raccontare una vita, cioè i suoi primi 45 anni, è la dimostrazione di come la parola socialismo non abbia ancora perso il suo smalto, ma potrebbe anzi arricchirsi di nuovi significati che le giovani generazioni le vanno attribuendo. Nel racconto di Chiara, la vita e l'opera di Basso sembra offrirsi come testo, direbbe Bourdieu, testo a cui fare riferimento nella ricerca di una dimensione più alta della politica oggi e trovare qui la sua attualità. Nel 2003, centenario della nascita di Basso, con Chiara abbiamo costruito insieme l'antologia fortemente voluta da Carlo Basso, che vorrei ricordare, degli scritti scelti di Basso, che ha poi offerto, sostiene gentilmente Chiara, la trama del racconto della vita e delle opere di Basso soprattutto per questa parte della sua biografia. A lettura terminata del suo libro mi chiedo tuttavia, ed è una piacevole sorpresa, fino a che punto esista questa corrispondenza con quel volume. In realtà mi colpisce il fatto che il risultato è un libro che si offre in lettura, credo con successo, a una generazione più giovane, coetanea di Chiara, quella che si è formata negli anni della fine del Novecento. La generazione di Chiara è quella che ha vissuto la sua età adulta negli anni 2000 e guarda all'indietro, al Novecento, appunto, con uno sguardo disincantato, un po' beniaminiano, da angelo della storia, ma comunque privo di tabù politico-ideologici. Il primo tabù che è caduto nello sguardo sul Novecento di questa nuova generazione è la centralità occupata nella storia dal secondo dopoguerra, a seguito della svolta politica rappresentata dalla sconfitta dei totalitarismi e dalla riorganizzazione europea su presupposti democratici. Era questo lo sguardo della mia generazione, ma oggi sappiamo che in quella prospettiva si perdeva di vista o si sottovalutava la radicalità culturale ben più profonda rappresentata dal primo dopoguerra, una prospettiva recuperata in parte dopo il 1989 e la caduta dei muri est-ovest. Su questa radicalità, diciamo, sono soffermati altri studiosi. Questo che è stato chiamato l'89 il terzo dopoguerra ha visto in realtà non solo il felice ricongiungersi dell'Europa, ma anche l'esplosione ai suoi confini di conflitti interetnici e religiosi, prima contenuti, tenuti a bada dai grandi imperi russo e ottomano e dai loro successori, come nel caso sovietico, ha cioè riportato alla luce la centralità del primo dopoguerra, la fine della pace dei 100 anni che su quella geografia politica ed economica si basava per la comprensione della vera storia del Novecento. Basso ha sempre saputo che il vero Civilisationsbruch, la vera frattura di civiltà, era in realtà quella del primo e non del secondo dopoguerra. L'ha scritto più volte e ne ha raccontato le ragioni, a noi che l'abbiamo conosciuto nel secondo dopoguerra, con quella sua apparente leggerezza unita a capacità di ascolto. Ora la ricostruzione biografica di Chiara rimette al centro tutta la fondatezza e attualità delle sue riflessioni degli anni 20 e 30. Le riporta alla luce rispetto alla pesante sottovalutazione e al vero e proprio oscuramento che questi scritti e la sua stessa battaglia antifascista hanno subito a partire dal decennio nerissimo rappresentato per lui dagli anni 50, quando, lo ha ricordato Monina proprio in parole chiave, gli fu impedito di pubblicare la rivista, di partecipare al dibattito politico praticamente, e fu per esempio costretto a pubblicare all'estero saggi importanti come quelli in cui si contestava sul terreno storico e filosofico, marxianamente e storicamente, la rivoluzione in URSS, penso ai saggi sui Cahiers Internationaux. Finché Basso ha vissuto, cioè fino al 1978, nel PC lo stalinismo non fu oggetto di vera autocritica. Quanto ai gruppi extraparlamentari, spesso questi si rivolgevano a lui stravolgendone il pensiero. Colpisce per esempio che un'antologia fondamentale, come quella delle riviste di Gobetti, di cui lui era stato protagonista e curatore, sia stata accolta nel 61 quasi con diffidenza e soprattutto con stupore, e poi subito ignorata. Del resto, Gobetti stesso non è mai stato molto di moda. Le tappe della sua riscoperta dopo la morte hanno evidenziato, grazie soprattutto a Rodotà, il suo ruolo sul terreno costituzionale e istituzionale. Ed è su questo terreno, quello dei diritti, oltre che dell'offerta come biblioteche e archivi di personalità non ortodosse, che la stessa fondazione intestata a suo nome trova ancora oggi un suo spazio in mezzo ad altre fondazioni, tutte legate a partiti esistenti. E questo è stato il disegno perseguito da Lucia Zannino, che mi fa piacere qui ricordare. Ma forse oggi è possibile, grazie al libro di Chiara, riconsiderare e rivalutare anche la sua presenza nel dibattito sulla crisi del Novecento, sulla crisi delle culture novecentesche. Ricordo un saggio suo del 27 che parla appunto già di crisi del Novecento, ovviamente è il Novecento è il Novecento dello stile estetico degli artisti, è il Novecento della rivista, è il Novecento di gerarchia e così via. Torniamo dunque agli anni della sua formazione, degli studi, delle scelte di una vita, quelle della mia prima tessera socialista, il suo racconto. Torniamo cioè a quella combinazione di valori come socialismo, libertà. Libertà in nome della libertà che Basso proclama il suo no alla Terza Internazionale da subito. E il neoprotestantesimo, che ispirano i suoi numerosissimi scritti su riviste degli anni 20. Meno negli anni 30 per ragioni di controllo poliziesco, gli scritti sono ovviamente più ridotti, che sono così ben raccontati in questo libro, ma che spiegano anche, oltre all'ostilità e al silenzio di parte comunista, anche una certa sottovalutazione di parte liberale. Si veda per esempio l'ottima, anche se non simpatetica, biografia di Piero Craveri nel dizionario biografico degli italiani, che non è priva di elogi, per esempio per il lato democratico della sua produzione. Cita il famoso saggio L'antistato del 1925, in cui già si delinea la definizione di totalitarismo per il fascismo, come contrapposizione appunto al fascismo in nome di sindacati, movimenti, autonomie locali. Soprattutto Craveri sottolinea la sua coerenza laica, che riconduce da difesa del protestantesimo, che è del 1926, al discorso sull'approvazione dell'articolo 7 nel 1947 e i suoi discorsi ancora nel 67-78 per la revisione del Concordato. Ma è stata per esempio diversa e più costante l'attenzione del mondo cattolico, si vede in particolare la raccolta di scritti sul cristianesimo a cura di Alberigo. Tornando al libro, numerose sono le citazioni che Chiara trae dai suoi scritti, nel tentativo di restituire il senso delle sue due tesi di laurea, andate perdute. La prima, in filosofia del diritto, la tesi, si intitolava La concezione della libertà in Marx del 25, e la seconda, per la laurea in filosofia, su Rudolf Otto, alla quale lavora nel confino a Ponza nel 31. Si tratta di scritti che usano lo pseudonimo di Prometeo Filomeno è un elenco molto lungo di questi scritti che vengono pubblicati e con questo pseudonimo negli anni 30. Sottolineo alcuni passaggi della lettura di Chiara. Per esempio, lei scrive: una peculiare idea di libertà, l'interpretazione in senso etico del socialismo, la forte intransigenza morale, la stessa concezione della lotta di classe come momento di educazione della coscienza, conducono Basso a istituire un chiaro nesso tra marxismo e riforma protestante, nei comuni tratti della ricerca della verità e dell'azione come processo di formazione. Oppure ancora più avanti, questo si parla di scritti che sono pubblicati sulla Rivoluzione Liberale, la rivista di Gobetti, o su Conscienza, la rivista di Gangale, protestante. D'altra parte, ancora scrive Chiara, ad accomunare Basso a due esperienze così lontane, ma anche così vicine spiritualmente, era l'idea che un rinnovamento della politica italiana non potesse prescindere, virgolette, da una profonda riforma morale del popolo italiano e soprattutto della sua borghesia. Ovviamente i toni gobettiani sono evidenti. Infine, scrive ancora, in difesa del protestantesimo del 1926, Basso afferma che la nostra riforma, virgolette, non è la ripetizione meccanica della riforma di Lutero e di Calvino, né essa è un tipo fisso, un figurino che tutti si debba indossare, al contrario, essa è un processo continuo di negazione e superamento del cattolicesimo. Lutero e Calvino, come Hegel e come Marx, sono termini di questo processo, perciò il nostro protestantesimo fa tutt'uno col nostro marxismo. In uno degli ultimi articoli scritti per Conscienza, che riuscirà a esistere fino al gennaio del 27, poi sarà anch'essa soppressa, Basso ribadisce la genesi del pensiero di Marx e della filosofia idealistica dal grande alveo della riforma protestante. Potrei aggiungere altre citazioni, per esempio quelle degli scritti che definisce metapolitici chiari e sulla centralità della persona degli anni 30, appunto su Rudolf Otto, ma soprattutto su Dostoevskij, su Kafka, su Ibsen. Ma spiego perché ho voluto dedicare tale spazio a questo aspetto meno noto della biografia di Basso, cioè quello del ruolo svolto nella sua formazione socialista dallo studio del pensiero religioso e protestante. In primo luogo per evidenziare una scelta della biografia che condivido, ma che non era così scontata. Quindi torno al quesito che ho posto all'inizio circa l'attualità di Basso, e se è così, di quale Basso? Crede, cioè Chiara, che questo sia un aspetto della sua potenziale attualità? È questo il quesito che le giro. Comunque, a conferma della scelta dell'autrice, aggiungerei un paio di tasselli. Il primo è di tipo culturale e filosofico. Gareth Stedman Jones ha osservato in una corposa introduzione al Manifesto Comunista di Marx e Engels del 2002 che la ragione dello straordinario successo di questo testo si deve alla sua innovativa visione modernista, in cui il capitalismo è identificato non solo come sfruttamento, ma anche come grande potenza liberatrice, in grado di sottrarre il popolo dall'arretratezza e dalla dipendenza della tradizione. E questa del resto è la lettura di un volume che tutti voi forse conoscete, splendido, che è L'esperienza della modernità di Marshall Berman. Come scrive Stedman Jones, il risultato più grandioso del manifesto è quello di avere fondato la sua tesi su una visione del mondo moderno straordinariamente nuova e eccezionale, tanto che rimane ancora la nostra, nonostante tutti i cambiamenti. E questo è stato possibile anche per avere coraggiosamente rinunciato a ogni riferimento ai dibattiti da cui era nato, ma che lo storico poi ricostruisce ampiamente in ben 150 pagine che seguono, e cioè quel tra i discepoli di Hegel e tra i movimenti post-cristiani di riforma religiosa in Gran Bretagna e in Francia all'inizio del XIX secolo. In buona sostanza, l'attenzione nel testo, sostiene Stedman Jones, è spostata dalle idee socialiste e comuniste alle forze sociali che le rappresentano. In tal modo le idee, le parole socialismo e comunismo sembrano essere sinonimo dell'emergere stesso del proletariato industriale e della transizione alla società moderna. Ecco, ho richiamato questo saggio a conferma dell'interesse che evidentemente riveste anche per le nuove generazioni, e qui penso appunto alla generazione di Chiara, il dibattito filosofico sulle matrici della modernità, sul difficile distacco dall'alveo religioso, ma anche la necessità di ricorrere a un nucleo di valori, di libertà, di diritti e di doveri comuni in ogni fase di rifondazione etica. A questo proposito introduco una seconda riflessione che ha a che fare con la formazione culturale e etica di un'elite dirigente che avrebbe svolto un ruolo centrale solo nel secondo dopoguerra, ma che si forma tra le due guerre, in Italia e fuori d'Italia. Sempre ragionando sui lasciti culturali specifici di Basso, accendo rapidamente agli anni 30, quando, a fianco, come abbiamo visto, alle riflessioni sul neoprotestantesimo, Basso tiene i contatti col centro interno socialista, spesso in polemica su posizioni classiste, interviene sul tema del partito nel dibattito con Giustizia e Libertà, di questo non ho trattato perché ne ho parlato in più sedi, ma scrive anche, in una linea più che azionista, direi mazziniana, da pensiero azione, il saggio su Pisacane, recensendo lo studio famoso di Rosselli. A questo saggio del 32 Chiara collega giustamente i successivi saggi su Gobetti e Salvemini. Con sempre maggiore interesse oggi si scopre come negli anni 30, nella cultura italiana di area liberale, il movimento di Giustizia e Libertà abbia operato una fusione tra le diverse idee di libertà, politica, personale e sociale, sia in esilio con Carlo Rosselli che in patria con Calogero e Capitini. E cioè cresciuta in quel decennio una visione non marxista del nesso tra libertà e giustizia sociale. E su questo rinvio a Nadia Urbinati e anche a saggio che ha pubblicato nel citata numero di Parole Chiave. Questa cultura, di cui era parte anche Basso, in Italia ebbe una forza maggiore che in paesi come la Francia e la Germania, perché divenne patrimonio del movimento antifascista e ispirò nel dopoguerra i movimenti di massa. Si noti che un altro tassello si aggiunge per meglio comprendere i possibili terreni d'intesa che si troveranno alla Costituente, e cioè il ruolo che, come ha dimostrato Renato Moro, assume la cultura giuridica per i cattolici italiani sempre nel contesto di quel decennio. Anche Pombeni ha osservato come questa cultura testimoni di un nuovo rapporto con lo Stato. Il diritto appariva come una scienza politica, ha scritto, anche per la nuova attualità delle questioni costituzionali dopo l'esperienza di Weimar e in risposta alla pressione sociale. Ma a questo proposito vorrei porre la seconda domanda chiara. Non prima di aver osservato che, come ci si aspettava, il capitolo su Basso alla Costituente del libro La fantasia giuridica del Costituente rappresenta un saggio definitivo sullo straordinario, originale e imprevisto apporto di Basso al testo costituzionale. Su questo non mi soffermo perché condivido l'entusiasmo di Chiara, avendo lavorato più volte sui verbali della prima sottocommissione. Ricordo anche che anche se all'inizio non si poteva prevedere, mancavano per esempio nella prima sottocommissione figure di spicco come il giurista Calamandrei, che è nella seconda, o l'economista Fanfani, che è nella terza, in realtà è qui, attorno alle figure centrali di Moro, Basso, Togliatti, Dossetti, La Pira, Marchesi, Lucifero, cioè della cultura socialista, cattolica e liberale, che si pongono le basi per l'incontro tra le diverse culture politiche emerse vincenti dalla lotta contro il fascismo, che influenzeranno sia la scrittura della Costituzione che il percorso della democrazia repubblicana nei successivi perlomeno 30 anni. Ed è su questo terreno che si dimostra l'abilità e la fantasia di Basso, che è in realtà di solito la prima voce che propone le formulazioni più avanzate dei valori del socialismo, aprendo poi al terreno dell'incontro, quando è il caso, come negli articoli 1 e 3, con la sinistra dossettiana, con l'obiettivo di ottenere formule operabili in futuro. Tornando in questi ultimi anni a occuparmi di Basso, dopo per esempio aver studiato la cultura cattolica e Moro, mi chiedo come mai non esistano nel suo caso interventi negli anni e nei mesi precedenti che lascino prevedere il ruolo che avrebbe svolto e sul quale sarebbe poi tornato più volte nei 30 anni successivi, tanto da avere come unica aspirazione di politica italiana, malauguratamente frustrata, quella di entrare a far parte della Corte Costituzionale. Chiara giustamente si sofferma sul problema Monte, il rapporto con le istituzioni e l'intuizione bassiana di chiedere a PSI di formare una commissione di studi costituzionali composta da esperti che lavorasse a fianco dei costituenti socialisti. Eppure non mi sembra sufficiente il rinvio al saggio di Marx sul 18 Brumaio, su cui lei scrive. C'è qualcosa che si mette in atto in quei mesi, un effetto commissione costituente, potremmo definirlo, che forse risultò imprevista anche lo stesso protagonista. Del resto, se pensiamo a come Calamandrei criticò durante tutti i lavori l'Assemblea per difenderla poi con convinzione e forza, dobbiamo certamente concludere che ancora una volta si trattava non di politica ma di valori. Vi cito a questo proposito, sto chiudendo, una testimonianza di Foa, raccolta da Giancarlo Monina nel libro Le vie alla politica, che dice, quando a proposito del 47, quando andai con Riccardo Lombardi ad assistere al congresso della città universitaria, il 25esimo congresso del PSU del gennaio 47, e sentimmo la relazione introduttiva di Basso, uscendo ci dicemmo che quello sarebbe stato il nostro partito, anche se poi abbiamo avuto motivi di esitazione. Che cos'è che ci piaceva e ci attraeva? Era la radicalità del linguaggio che esprimeva la forza di un'idea, il fatto che l'idea non fosse proposta subito per essere mediata e verificata nella sua fattibilità immediata, ma era di per sé considerata come un'arma di lotta, era l'idea stessa che doveva sfondare gli ostacoli. Questo mi sembra una caratteristica di Basso. Il suo socialismo poteva essere discusso da mille punti di vista, ma in lui l'idea era considerata come una forza, un'arma di lotta immediata. Chiudo con una battuta sulla voce di Piero Craveri, che ho detto peraltro molto attenta. Craveri scrive: più che la politica, lo interessava il dibattito delle idee, che lamenta, ha scritto Craveri, che lamenta in lui l'assenza di una compiuta riflessione intorno alle forme della politica, in particolare sulla forma partito. Un tema che il basso teorico tenderà sempre in qualche modo a sfuggire e da cui uscirà sconfitto il basso politico. Citazione. È un'affermazione che mi ha colpito perché oggi ho l'impressione che sia proprio il suo essere rimasto sempre appassionato delle idee più che delle forme della politica ciò che rende la sua figura attraente per le generazioni più giovani nella crisi attuale delle forme della politica. Grazie mille Mariuccia per questo aver sottolineato degli aspetti meno conosciuti della biografia di Basso. E adesso la parola a Stefano Rodotà. Aspetta un momento, vedi che si è rosso? Si è acceso? Sì. Sì. Io credo che in questa sala ci siano molti che abbiano ciascuno il proprio Lelio Basso. E lo hanno voluto mettere alla prova con la biografia che ha scritto Chiara Giorgi. Ma io dico subito, condivido assolutamente quello che ha appena detto Mariuccia Salvati, perché anch'io, avendo strumenti più poveri, e tuttavia sono stato colpito proprio dalla ricostruzione la nascita del pensiero politico di Basso, cioè come Basso diventa Lelio Basso. Effettivamente è troppo semplice tirare dei fili che poi ci congiungono al dopo, perché la riflessione di Basso è sempre, questo lo mette bene in luce Chiara Giorgi, una riflessione molto intensa, molto consapevole della difficoltà dei temi che affrontava e quindi sottratta a ogni tentazione di attualità e nello stesso tempo con una straordinaria capacità di interpretare il presente e soprattutto c'è un'idea di futuro che colpisce molto e devo dire sinceramente, poiché è stato appena nominato stato fatto l'ovvio riferimento a Piero Calamandrei, che io sono stato indotto dalla lettura di questo libro a una riflessione. Io, come tanti altri, abbiamo speso una citazione di Calamandrei, quella della Costituzione presbite, cioè una Costituzione che aveva in sé il futuro, però che non era stata in grado di contemplare il presente. In realtà, poi, riflettendo, sappiamo tutti che questo era in qualche modo l'espressione della delusione di Calamandrei rispetto al modo in cui la Costituzione operava in quegli anni. Basta leggere il saggio che lui scrisse nel volume 10 anni dopo, pubblicato dalla Terza, e però non si faceva prendere dal pessimismo. In realtà Calamandrei scopre la Costituzione dopo che la Costituzione è stata approvata. Se leggiamo per esempio gli interventi di Calamandrei, faccio un solo esempio per vedere la distanza enorme che c'è con la consapevolezza di Basso. Quando si discute sulla famiglia e si propone l'articolo in cui si dice che la famiglia è ordinata sulla parità giuridica dei coniugi, lui e Vittorio Emanuele Orlando dicono che questo contrasta con il codice civile, che prevede il marito come... Cioè, il fatto rivoluzionario, non siamo la parola rivoluzione che nel discorso di Basso ha una ben altra pregnanza, ma la considerazione che c'era un mutamento della gerarchia delle fonti, che Basso introietta immediatamente, non c'è parola in tutta la sua presenza all'Assemblea Costituente che non abbia questa consapevolezza che cambia la gerarchia delle fonti. E che c'era un dovere culturale di attribuire alla Costituzione, alla prima parte, perché lo ricorda Chiara, dice la prima parte è quella innovativa, la seconda parte è conservatrice. Questo lui l'ha detto, poi l'ha ripetuto, ne abbiamo parlato infinite volte, ma quello è un punto essenziale. E mentre c'è la scoperta, poi faccio una battuta perché a Vittorio Emanuele Orlando e a Piero Calamandrei risponde una donna che io voglio sempre citare, Maria Maddalena Rossi, in aula dice: se questo è il codice civile, le donne italiane lo cambieranno. E questo era un bel modo di rispondere. Comunque, invece, il discorso di Basso, adesso non ho tutte le mie citazioni, ma ve le risparmio pagina per pagina, e il futuro è già lì. Questo è il punto fondamentale che distingue la posizione di Basso da quella di Calamandrei. In realtà la posizione di Calamandrei, a cominciare dal fatto che lui riteneva che la parte dei diritti fondamentali non dovesse essere, cioè che quelli che noi abbiamo individuato come principi fondativi che ancora oggi tengono al centro della discussione la Costituzione, dovesse essere affidata a una sorta di preambolo, quindi destituito anche dall'immediata operatività, che invece è ciò che Basso sente fortemente. E allora il punto di legame tra questo Basso inatteso, e io dirò anche qualcosa su questo, ma questo Basso inatteso e il precedente è forse, ma io su questo sono sempre prudente quando parlo di cose che non mi appartengono come mestiere, e come ricorda insistentemente Chiara, con ricchezza anche di articolazione del discorso, la rivoluzione come un processo. Questo è il punto fondamentale. E allora in questo processo c'è la Costituzione, che non è una registrazione della cultura del momento, ma è un passaggio fondamentale per la costruzione di quella società che ha al suo centro il proletariato, che è l'obiettivo di Basso. E però nella discussione costituente c'è qualche cosa che mi ha molto colpito, e cioè una serie di posizioni problematiche, anche qualche contraddittorietà che c'è nel periodo precedente, si sciolgono in quel momento, e c'è una straordinaria unione tra riflessione e capacità di individuare la scelta politica necessaria. In altri momenti si può discutere la posizione di Basso sul CNL, si può discutere la posizione di Basso sulla svolta di Salerno, ma nel momento in cui lui vede che l'obiettivo è quello dell'approvazione della Costituzione, lui non fa concessioni, fa una straordinaria lettura realistica della situazione politica, che era l'unica, e lui aveva individuato questo punto, è l'unica che avrebbe permesso l'accettazione di un certo tipo di governo, che avrebbe consentito l'approvazione della Costituzione. Quello era il suo grande obiettivo in quel momento. Lui non si astrae dalla politica, tanto che Chiara ricorda molto bene, tutto sommato, il ritorno poi impetuoso nella politica a un certo momento, quasi che lui dovesse chiudere una parentesi, ma la chiudeva nel momento in cui lui avvertiva, e questo libro me lo ha messo davanti, avvertiva che il risultato che gli stava a cuore era ormai vicino. Questo mi sembra un punto importantissimo, almeno ognuno io do la mia lettura, e quindi il mio Basso, adesso non so se risulta rafforzato o meno, ma certo le molte discussioni che ho avuto con Lelio, che ho conosciuto tardi, ma poi Lelio è una persona straordinariamente generosa, da questo punto di vista si spendeva in tutte le occasioni, e quindi io gli sono debitore di molte cose. E c'è questo filo, se noi non ricostruiamo, che cosa c'è che mi colpisce? Noi sentiamo in questo momento molto forte la difficoltà del rapporto tra cultura e politica, molto forte, addirittura l'interruzione dei canali di comunicazione, che io non attribuisco con un certo semplicismo soltanto alla, come dire, non voglio usare aggettivi, a quello che sta capitando alla politica in Italia, ma non soltanto in Italia. Io dopo ho fatto un giro in queste ultime settimane tra Francia e Spagna, questa difficoltà è avvertita molto, ma il rapporto tra cultura e politica ha responsabilità anche sul versante della cultura. E il discorso di basso, gli anni formativi, l'ampiezza degli orizzonti, passare dalla tesi su la libertà in Marx alla tesi su Rudolf Otto, guardate che è un passaggio straordinario che ci dice quanta complessità ci sia stata, quanti interlocutori si è scelto nella sua vita, i più diversi, e con i quali ha sempre intrecciato un dialogo molto molto impegnativo, senza nessuna concessione. E quello che poi ci ricorda molto bene Chiara, adesso io semplifico molto, questa versione del socialismo innervata di volontarismo, spiritualismo, soggettivismo, che sembra qualcosa che non tiene alla fine, e che invece in questa complessa formazione del periodo di basso, del pensiero di basso, ci dà una serie di indicazioni. La forte spinta etica, che sarà poi quella che lo accompagnerà in assemblea costituente e dopo, non è spiegabile senza quel momento, appunto il neoprotestantesimo, il modo in cui riprende negli anni 60 il tema della, diciamo semplicisticamente, della revisione del concordato, cioè dall'uscita dal regime concordatario, non ha niente, se posso usare, di anticlericale. Assolutamente, tant'è che l'attenzione del mondo cattolico rispetto alla proposta di Basso è molto interessante, quindi ci sono molte cose che, insomma, il rapporto cultura-politica richiede certamente, cioè, ci vuole buona cultura, e buona cultura solidamente fondata. Questo mi pare che l'influenza di Basso nella politica italiana, parte il discorso, l'osservazione che io ricordo bene di Piero Craveri, il fatto che lui abbia colto nel momento più intenso della fondazione dello Stato repubblicano il dato politico rilevante, diremmo volgarmente portare a casa la Costituzione, è un fatto che non era consapevole, e lo fece senza nessuna concessione. Lui sapeva, se noi confrontiamo i discorsi che lui fa in relazione all'articolo 7, la posizione che assume sull'articolo 7, e la semplificazione di Togliatti, pure in un dialogo con Dossetti che meriterebbe di essere, io ne consiglio ogni tanto la lettura, non condivido né l'uno né l'altro. Questi si sfidavano a colpi di citazione di Francesco Ruffini, non vorrei dire, ma il punto che poi ci fosse un problema politico di rapporto con la Chiesa veniva un po' politicamente risolto in quel momento, soprattutto sul versante di Togliatti, dicendo non può la Repubblica, non può la Repubblica. C'è uno slittamento importante. La Repubblica non può nascere con l'ostilità non della Chiesa Cattolica, dei Vescovi. Cioè, in quel momento in cui noi dobbiamo fondare nella società della Repubblica, non ci possiamo permettere tutto questo. Basso fa un discorso politicamente, adesso non posso entrare nei dettagli, politicamente molto più consapevole. E di una consapevolezza che, per esempio, se uno legge i Dinari di Nenni, a Nenni non gliene importava niente dell'Assemblea Costituente, assolutamente niente. Sceglie come suo capo di gabinetto, quando diventa tutto sommato a malincuore ministro per la Costituente, Massimo Severo Giannini, ed è una grande scelta. Però non c'è da quella parte. E allora, se la Costituzione ha avuto un certo taglio, un certo modo di procedere, il debito nei confronti di Basso è enorme. Se noi pensiamo alla sua riflessione sulla persona, e noi abbiamo letto, io mi metto tra questi perché io sono vecchio e so bene anche il momento c'è stata una considerazione del riferimento alla persona nel dibattito costituzionale che per molto tempo l'accantonava dicendo ma questo è nient'altro che una concessione al personalismo cattolico di Mounier e Maritain che veniva portata avanti da facendo poi un minestrone da Dossetti, Lapira, Fanfani, persone che guardavano in modo completamente diverso. Ora, se noi guardiamo il dialogo con Lapira, in particolare sulla persona, che non è un'invenzione che lui ha in quel momento per uscire anche dalle difficoltà, anche di scrittura di norme costituzionali sul tema della persona, allora quello che lui aveva detto prima sul tema della persona, cioè questo solido impianto culturale, gli consente di tenere testa vittoriosamente, se posso dire, scusate se riduco in questo modo la discussione, alla posizione di Lapira, che in quel momento era la posizione più caratterizzata. E l'idea di persona che passa è, non voglio dire adesso l'idea di Basso, ma lo ricorda benissimo Chiara nel libro, insistendo sul fatto che tante volte mi è ritornato nelle discussioni con lui nel riferimento a Kelsen e del compromesso democratico, cioè l'idea di compromesso che è quella di Kelsen, cioè che si deve guardare l'altro, si deve tener conto di in questi grandi momenti della storia, è lì pienamente svelato e spiega anche il modo in cui l'incontro tra culture diventa possibile alla Costituente. E capisco quindi perché poi negli scritti successivi tante volte Lelio avesse fatto riferimento a Kelsen, che per altri versi era certamente lontanissimo da lui. Non dico quando una volta gli nominai la teoria comunista dello Stato di Kelsen, quella che fu la sua reazione, molto misurata e culturalmente molto attenta. Quindi ci sono tutte queste componenti, così come la progressiva scoperta del diritto. Io devo a Lelio una citazione che poi io ho usato quando lui una volta discutevamo, era la vigilia, lui doveva andare, poi non poteva andare, io non ci andai per una ragione politica, perché c'era stata una discriminazione, dovevamo andare in Cile, era il Cile di Allende, e lui scrive una cosa di cui abbiamo discusso moltissimo, a un certo punto lui mi dice, noi dobbiamo essere consapevoli che il diritto è uno strumento fondamentale sulla via del presa del potere da parte del proletariato, della rivoluzione. Perché Marx, quando c'è l'approvazione in Inghilterra della legge sulle 10 ore, viene attaccato molto, anche da Engels, attenzione, con più prudenza. Però lui va a una di queste associazioni di proletari e in quello che lui chiama un indirizzo dice una frase straordinaria, replicando e chiudendo la discussione. Per la prima volta, alla chiara luce del sole, l'economia politica del proletariato ha prevalso sull'economia politica del capitale. Punto e basta. Cioè, quello è un punto fondamentale, l'approdo che poi sarà la linea di tutto, sarà la linea che sarà seguita, per esempio, nella costruzione del sindacato in Inghilterra, che è molto influenzata da questo, del laburismo, quando ancora in Italia. Adesso non facciamo troppe divagazioni. E c'è questo discorso che poi si vede in maniera evidentissima nel discorso alla Costituente, nel lavoro della prima sottocommissione, per il modo in cui intreccia i dati fondamentali, perché a Basso si deve anche il discorso, se ha quell'andamento verbale, l'articolo 2, dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, è esattamente quello che si dice alla fine dell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli di ordine che impediscono la partecipazione dei lavoratori alla vita, sono esattamente le stesse parole. e dal libro di Chiara a questo punto è ricostruito in maniera... Lui in qualche modo aveva anche un qualche rammarico che quella cosa fosse nell'articolo 2, ma aveva torto, perché invece quell'incipit della Costituzione è straordinariamente vitale. E se posso dire, io qui è ricordato a pagina 185 che quando con Giannini mettono a punto il secondo comma dell'articolo 3, c'era una versione, perché ricorda giustamente Chiara, alla fine la seconda versione, cioè una più moderata, l'altra più spinta. Queste sono proprio le parole di Lelio. Quest'ultima alla fine fu scartata da entrambi perché troppo teorica e giuridicamente ambigua. E si diceva: la Repubblica si impegna a offrire a tutti i suoi cittadini uguali posizioni economiche e sociali di partenza, rimuovendo ostacoli e privilegi oppressivi della personalità. Un testo bruttissimo. Lo dico con grande sincerità, è ambiguo, perché si chiudeva l'eguaglianza nell'eguaglianza delle posizioni di partenza, mentre ciò che è nel punto chiave dell'articolo 3 è che ci sono situazioni in cui l'eguaglianza si misura nel punto d'arrivo. Voi volete davvero pensate che per esempio il diritto fondamentale alla salute o la tutela dell'ambiente non sono misurati sull'arrivo? Questo è del tutto evidente, e quella formula straordinariamente ricca è un lascito che non è appartiene al passato, perché con tutte le valutazioni che si possono fare, la tanto controversa sentenza sulle pensioni, la numero 70 di quest'anno della Corte Costituzionale, quali sono le ultime parole della motivazione? Secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Quindi c'è l'apertura di una dimensione costituzionale che si fa dimensione politica. Questo è il vero contributo poi di Lelio Basso. Naturalmente poi Lelio voleva andare alla Corte, lo sapete tutti, e fu Pertini che gli impedì di andare alla Corte. Pertini, io ho avuto uno scontro violentissimo personale con Pertini, permettetemi di raccontarlo, perché un giorno io non conoscevo Pertini, collaboravo con Panorama, conoscevo anche poco Lelio, non c'era niente di personale. E scrivevo sul Panorama, ho scritto un pezzo dicendo che era una vergogna che il Presidente della Camera, a cui spettava di convocare la seduta comune, non la convocava semplicemente perché non voleva che fosse eletto Lelio Basso. E ho scritto pari pari, il giorno dopo sento squillare il telefono, alzo il microfono, allora c'è la cornetta, il telefono, e c'è dall'altra parte un signore che mi fa: mi dicono che tu sei un compagno. E dice che, e io gli dico: mi dicono che anche tu sei un compagno e stai facendo una cosa che con l'essere compagno non ha niente a che vedere. Siccome poi Pertini era uno che... Comunque, lui impedisce, adesso non voglio raccontare, perché tutta quella vicenda l'ho vissuta con Lelio molto da vicino, quindi non voglio entrare in tutti i dettagli in quello che succedeva tra il primo piano e il terzo piano di questo edificio. Pertini impedì che Lelio dimmi. Poi a un certo punto Lelio, che aveva una grande dignità personale, disse: ma insomma, se non mi vogliono, peggio per loro. Ecco, e andò un'altra degna persona, certamente. Allora, c'è questo punto, perché quello che io volevo ricordare, e chiudo su questo perché ho parlato più del giusto, che il punto, poi certo ci sono tante altre cose, vorrei parlare un po' della questione del partito, perché poi tra l'altro io ho scritto una prefazione alla riedizione, ma questo è un discorso troppo lungo. Certamente questo libro mi ha molto, e poi c'è il rapporto tra la sua idea di partito e il Partito Nuovo di Togliatti, di cui si fa menzione a un certo punto, ma questo libro sollecita molto questa riflessione, e così come un altro punto molto importante di questo libro è il rapporto tra l'idea di partito che elabora Lelio Basso e il consiliarismo che gli viene da Rosa Luxemburg. Quindi questo è un libro molto ricco, ma questi sono passaggi che mi hanno molto aiutato a capire anche il basso costituente, che tutto sommato io avevo un po' isolato da tutto il resto, ma non è così. Ma quello che volevo dire è anche questo. Il contributo di basso nella discussione costituzionale e nella riflessione teorica sui diritti fondamentali è non solo l'avere ripreso la discussione marxiana citoyen bourgeois, non è solo questo, ma l'aver con molta, molta decisione contestato la tesi del carattere naturale dei diritti fondamentali. Lui riconosce, e Chiara lo ricorda bene, l'importanza, ma politica, del giusnaturalismo. È uno strumento di lotta politica, lo sappiamo tutti, e quante sono le definizioni di giusnaturalismo, di diritto naturale, che ha contato Norberto Bobbio. Ma a quel punto il passaggio fondamentale di basso, e qui è importante, perché nella discussione successiva, che in questo momento è apertissima in tutto il mondo, da noi forse qualcuno se ne rende conto poco, ma che possiamo fare? Il punto dei diritti fondamentali e il suo sganciamento da una matrice puramente naturalistica non è tanto legato a quello che molti giuristi dicono, ma il diritto è una grammatica, il diritto è un artificio, e quindi quando si entra nella dimensione giuridica poi tutto sommato si tagliano i ponti con tutto quello che c'è prima, viene dopo, eccetera. No, lì c'è questa riflessione, peraltro questa è, lui la mette in evidenza, non è un contributo che viene soltanto da lui, la storicità della costruzione dei diritti. I diritti fondamentali sono il risultato della lotta politica, e questo è il dato importante, che è il dato poi che dà il senso a tutto questo discorso sui diritti fondamentali. Perché se i diritti fondamentali sono collocati lì e si sta poi in attesa della loro effettività, e se non c'è l'effettività i diritti fondamentali non contano niente, che è quello il discorso che oggi viene proposto anche con una certa improntitudine e approssimazione culturale, e non si capisce il senso di mettere i diritti fondamentali nelle Costituzioni. E in questo senso l'intuizione di Basso, che va molto ben presente, quante volte ne abbiamo parlato, e ha ragione Mariuccia quando dice attenzione, lui ha molto ben presente la rottura del primo dopoguerra, perché lui sa benissimo tutto quello che accade intorno alla Costituzione di Weimar. Ma lui vede in quel momento, nel modo in cui i diritti fondamentali diventano fondamento della Costituzione, un passaggio innovativo e che rafforza. In quel momento c'è un'operazione molto più complicata, certo, ma quello è un punto essenziale, e cioè non si può disconnettere il discorso sui diritti fondamentali dalla storia e dalla storia politica e da soggetti politici che si devono far carico di tutto questo, che ha due aspetti che lui mette in evidenza, ma non disconnette mai: quello che è il dato individuale, che lui sente, in questo senso innova poi tutto il discorso che tu ricordi con il rapporto con il liberalismo, l'idea di libertà, che lui sente molto fortemente, il fatto che la stessa difesa individuale dei diritti fondamentali, da cui non si può prescindere per tante ragioni, anche tecniche, come si va davanti a un giudice, e tuttavia ha bisogno di questa fondazione sociale. Se non c'è nessun soggetto che si prende in carico, se non c'è una politica dei diritti fondamentali, i diritti fondamentali rischiano di appassire. Questo è il punto molto evidente, e che c'è in qualche modo, forse meno evidente che in altri, il fatto che il tono della Costituzione prende ispirazione da basso, perché l'idea tutto sommato naturalistica non c'è nella Costituzione, non c'è, e non c'è anche perché il fondamento della Costituzione della Repubblica, lo sapete, è quello dell'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, con due cose, la democrazia come fatto niente affatto naturale e il lavoro come momento di raccordo reale tra la persona e il dato di realtà, non hanno niente di naturale e sono affidati appunto alla storia e ai soggetti della storia. E tutte queste cose mi pare che ci consegnano un basso che, insomma, ha lasciato un segno molto forte, veramente molto forte, tanto forte e tanto impressionante per l'idea che lì ci fosse qualcuno che aveva una capacità di guardare in fondo, di guardare a fondo delle situazioni, che aveva colto dinamiche internazionali. Non so se qualcuno ricorda che negli anni più duri del terrorismo si andò alla ricerca del grande vecchio e qualcuno disse perfino che poteva essere l'Elio Basso. La fantasia delle persone, ci sono due nomi che sono, l'Elio Basso e Alberto Malaguggini, che in quel momento era giudice costituzionale. Ma questo che cosa vuol dire? L'Elio Basso era visto in quel momento come una straordinaria personalità intorno alla quale si coglieva in qualche modo, voi ricorderete i discorsi che venivano fatti sulla potere imperialistico delle multinazionali e il fatto che l'Elio Basso, attraverso prima il Tribunale Russell, poi il Tribunale dei diritti dei popoli, avesse impugnato tutto questo, l'avevano fatto descrivere come una sorta di banditore di questa volgata un po' semplicistica che c'era in quel momento. Quindi poi aspettiamo il libro adesso di Giancarlo Monina su quest'altra parte, che è certamente molto importante. L'Elio Basso non si è mai fermato, questa è la verità, e ha messo a frutto tutto quello che nella sua vita, con un lavoro straordinario e che merita ammirazione, aveva creato. Grazie davvero Stefano per questa bellissima relazione e per aver tante volte sottolineato quello di cui abbiamo molta nostalgia, il rapporto fra la cultura e la politica, che davvero ci manca molto. Giacomo Maramao. Ma penso di fare una opera gradita anche al pubblico se riduco a pochi punti mio intervento, utilizzando il libro di Chiara come uno strumento per andare anche al di là della storiografia, al di là della ricognizione storica. Voi avete detto cose molto importanti, fino alle cose dette da Mariuccio, anche da Stefano, sulle quali ritornerò alla fine, ma lo voglio utilizzare con un gesto beniaminiano, via, qui amiamo tutti Benjamin, cioè come una monade che schizza fuori dal continuum, per cercare di capire qual è stato il contributo di Basso a una visione della politica democratica, della politica socialista, aggiungo anche dal punto di vista di una teoria della rivoluzione. E primo aspetto, c'è un tema che emerge dal libro di Chiara e che lo possiamo riassumere in una parola, il termine eresia, cioè l'Elio Basso appartiene a una specie rara della cultura e della politica italiana, cioè alla specie degli eretici. In lui vi è un elemento libertario, sicuramente molto forte, emergeva dei discorsi fatti da Elena all'inizio da Mariuccia, poi emerge chiaramente dal libro di Chiara, però radicato in un impianto molto rigoroso, in una pratica dell'intransigenza che è di segno protestante, avete visto, no? Da un lato Marx, la libertà in Marx, dall'altra parte un teologo protestante come Rudolf Otto, che è autore di un libro importantissimo per molti di noi, Filosofi sul Sacro. Lelio li leggeva entrambi ed era anche bifocale nella sua ottica, nell'ottica con cui si accostava ai fenomeni sociali. Era un giurista nel senso dinamico, come diceva prima Stefano, ma era anche un filosofo. Aveva un'attenzione molto forte alla filosofia, aveva queste due lauree, due percorsi di conoscenza. L'attitudine libertaria la troviamo nella Temperie di Lelio, che la Temperie è del primo dopoguerra, inizio degli anni venti, quando lui appunto scrive sulla critica sociale con lo pseudonimo di Prometeo Filodemo, è una cosa che è stato uno dei primi argomenti che ho toccato con Lelio quando lo conobbi, ed è un indicatore anche della sua capacità di intessere rapporti internazionali. Quando lo conobbi nel novembre del 1971 a casa di un grande storico socialista tedesco, Wolfgang Abendroth, a Marburgo proprio. Era appena uscito il mio libro che Chiara generosamente cita, quello sul marxismo e revisionismo iniziale, che era uscito nel mese di ottobre, il mese precedente. Io stavo in Germania all'epoca e ci sarei rimasto ancora per alcuni anni. E ricordo che ritornando a Francoforte in macchina, dopo la riunione a casa di Abendroth, gli regalai il libro, lui vide, ma come, citi me quando scrivevo sotto pseudonimo Prometeo? Dice, sì, era lo pseudonimo Prometeo Filodemo, mi disse lui, io lo amo chiamarlo così. E qual è il Lelio che emerge da quegli interventi? È un Lelio in linea con la linea antideterministica di una certa sinistra italiana. La stessa Temperie, badate bene, del giovane Gramsci che scrive La rivoluzione contro il capitale, intendiamoci, rivoluzione contro il capitale di Marx, contro il determinismo del capitale di Marx. La Temperie è quella, tutto sommato. Quindi spostiamo il focus dall'analisi delle strutture alla costituzione della soggettività. Questo rimane, anche se poi Lelio diventa, come tutti voi avete detto dopo, molto più realista, radicato nei processi materiali di cambiamento, però questo tratto rimane il Lelio assolutamente vivo, il filo rosso che accompagna la sua militanza, sia politica che intellettuale. Quello che lo lega a una Temperie in cui c'è Gobetti, c'è Salvemini, il nostro protestantesimo di Gobetti, non dimentichiamo anche quella cosa, non dimentichiamo anche lui che scrive sulla rivoluzione liberale dei testi estremamente importanti, dove lui addirittura lì dice: la tradizione marxista italiana della filosofia della praxis, che parte dalla Briola, il secondo Marx, e che poi lo porta a Mondolfo, Ugo Guido era il maestro suo diretto, ma apprende molto dal fratello, da Rodolfo, socialista, ebreo, collaboratore dell'Enciclopedia Italiana, che va via dal 38. Io ricordo, feci quel, diciamo, il blocco centrale di quel mio libro, che era la mia tesi, con Eugenio Garen a Firenze, era su Mondolfo, e io ebbi uno scambio di una trentina di lettere con Mondolfo, che stava in Argentina allora, e che in queste lettere mi riferiva a tutta una serie di valutazioni sull'intellettualità italiana, Croce, Gentile, Gramsci e via dicendo, ma su questo punto poi dirò alla fine. Ma ritorniamo un attimo alla collocazione di Lelio. Come lo definirei Lelio? Cioè, Lelio è intanto, dopo l'incontro con Marx, è un marxista critico che analizza i processi di sviluppo del capitalismo, e vedremo come li analizza, ma evidenziando un tema che poi lo rende popolarissimo, in parte in Francia, diceva prima Stefano, e anche nel mondo anglo, ma soprattutto in Germania. Lelio è tra i pochi autori italiani tradotti negli anni 70 da Surkamp, che era il più importante editore tedesco di saggistica all'epoca, da Surkamp. E badate bene, Lelio è un marxista critico che si concentra sul fattore oggettivo-soggettività, cioè una teoria della storia, del movimento storico, che prescinda dal fattore soggettivo come un fattore materiale di cambiamento, è un falso materialismo. Ma qual era il testo che Rodolfo Mondolfo aveva evidenziato? Grazie a Giovanni Gentile, un testo che prima non si conosceva, che Engels fa pubblicare dopo la morte di Marx, ma che risaleva al 1845, che sono le tesi su Feuerbach. Testo celeberrimo soprattutto per quella frase finale: i filosofi hanno finora variamente interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo. Ma la frase iniziale è bellissima, è la cosa centrale che colpiva basso, no? E cioè, finora il materialismo è stato un atteggiamento puramente statico e contemplativo rispetto alla realtà materiale, di conseguenza il lato attivo è finito nelle mani dell'idealismo. E diceva Basso, noi, il marxismo oggi deve diventare idealista, nel senso che il marxismo deve appropriarsi dell'elemento della soggettività, anche nello spessore etico di cui prima appunto diceva Stefano. L'incontro con la Luxemburg. Quello è un incontro importante perché, come dire, è l'inveramento di quello che Lelio aveva immaginato attraverso la lettura di Marx. È vero che Rosa Luxemburg apparentemente si concentra su una diagnosi oggettiva, che è quella contenuta in quel grande libro che è L'accumulazione del capitale. Ma Lelio interpreta L'accumulazione del capitale come una straordinaria allegoria per suscitare le reazioni soggettive delle masse proletarie, della soggettività proletaria. Non possiamo affidarci alla teoria del crollo di per sé. Se noi ci affidiamo al crollo meccanico del capitalismo, arriverà la barbarie. E lì è il dato. Se prima la soggettività non si arma, non si organizza, E qui entra in campo la dialettica che emerge poi dal libro di Chiara, la dialettica tra momento oggettivo e momento soggettivo, cioè il rapporto che si deve stabilire tra la dinamica di socializzazione che il capitalismo produce e la reazione politica, perché è convinto Lelio che il meccanismo capitalistico è condannato a socializzare. Io penso ancora oggi è condannato a socializzare. Prima o poi si troverà davanti una massa critica ingovernabile, questo non c'è dubbio. è condannata a socializzare, però per altro verso nel Novecento, lo diceva Mariuccia molto bene prima, e lui conia la, come dire, la problematica del totalitarismo in maniera del tutto indipendente da, da Arendt, eccetera, è evidente che tutto questo poi induce il potere capitalistico a escogitare degli strumenti di contenimento reazionario che giungono fino alla chiusura totalitaria. Dalla Luxemburg lui trae questa dialettica, quest'altra dialettica tra spontaneità e organizzazione. E dalla Luxemburg trae anche un'altra cosa molto importante, oltre alle due logiche contraddittorie che noi abbiamo, no, dentro la dinamica capitalistica, la visione processuale della rivoluzione, che lo porta a dire: amo la rivoluzione francese, Dio sa quanto ha contribuito alla conoscenza della rivoluzione francese Lelio, no? In questa fondazione, no? Amo la triade della rivoluzione francese, ma stiamo attenti a non illuderci che la questione del processo rivoluzionario sia risolvibile con la presa del Palazzo d'Inverno in Russia o con la presa della Bastiglia. È una processualità profonda quella che deve essere innescata per poter determinare un cambiamento effettivo. E qui vengo alla conclusione, perché poi la visione di Lelio era una visione processuale, ma non gradualistica. Non gradualistica. Vi sono momenti di rottura in cui bisogna intervenire. Il momento della Costituzione è stato uno di quelli, il momento di rottura in cui bisogna intervenire. E vengo però alla mia idea, insomma. Basso ha rappresentato nei confronti della tradizione socialista, come lavoro fatto all'interno della tradizione socialista, quello che per altri versi Gramsci ha rappresentato per la tradizione comunista. Hanno lavorato ai fianchi la tradizione per entrambi in maniera molto diversa. Insomma, Basso non aveva grande simpatia per Gramsci, almeno questa la testimonianza che io mi sento di dare, perché c'è una differenza profondissima tra i due, ma vedremo però, a partire da un'esigenza comune. E cioè, per Gramsci, l'idea del cambiamento rivoluzionario la si ottiene attraverso una ridefinizione radicale della politica e anche del partito. Che ruota attorno al concetto di egemonia. Per Basso la si ottiene attraverso una ridefinizione del processo di cambiamento rivoluzionario che ruota attorno alla dinamica dei diritti. Questo non c'è dubbio, la differenza. Guardate bene, questo è un punto. Per entrambi danno grande valore al radicamento nazionale delle prospettive, non sono mica delle creature angeliche che stanno in uno spazio transterritoriale, no? Legate alla loro storia, sia Gramsci che Basso, cioè solo che per Gramsci il riferimento a Machiavelli, per Lelio al protestantesimo ha una forma di rigorismo etico che lo rende molto, molto, come dire, molto aperto nei confronti, non soltanto, come diceva Lito, delle tematiche teologiche, ma nei confronti anche dell'azionismo, tutta la cultura del partito di azione, dialoga con Lelio. La lettura di Mondolfo che dà Lelio, di Rodolfo Mondolfo che dà Lelio, e quella di Bobbio rappresentano due versioni speculari di una interpretazione libertaria azionista, tra virgolette, ma non nel senso di Foa, e quello è l'altro problema con Foa, ma comunque sia, è della interpretazione che di Marx e da Mondolfo. Bobbio, nel senso di un riformismo molto nobile, ma anche molto moderato, con una curvatura pessimistica. Nil sub sole novi, diceva Bobbio sempre a tutti noi, nil sub sole, sempre la stessa. Basso invece con una apertura al futuro continua, con una, come dire, con un radicamento nelle novità che emergono dal movimento, dai movimenti, con un'apertura alle persone e quindi non con la ripetizione, se volete, di formule dottrinali. Come dire, Lelio era convinto che da un lato dobbiamo strappare al capitale la potenza dell'astrazione, e lo vediamo anche oggi. Abbiamo un ceto terribile, preparatissimo, di tecnici della finanza globale che parla lo stesso linguaggio, un'elite spaventosa che parla lo stesso linguaggio a livello globale, che decidono in poche migliaia il destino di miliardi di persone. E questa è la realtà in cui noi ci muoviamo. E dall'altra parte abbiamo un problema di, come dire, rigenerazione culturale delle forze democratiche della sinistra, che invece spesse volte nelle loro figure deputate, tra virgolette, non hanno fatto che inseguire la cultura di quegli altri. E qui naturalmente si pone un problema molto molto serio. Ecco, Lelio in qualche modo era uno che guardava al futuro, ma il futuro lui lo vedeva radicato in una idea dei diritti come figura fondamentale di un tema che poi lo rende famoso in Germania, Oscar Necht, Lernprozess, processo di apprendimento della classe operaia, processo di apprendimento. Le azioni devono essere anche un processo di apprendimento collettivo. Questa idea alternativa di sfera pubblica che, dico, Lelio sfonda in Germania molto più di Gramsci nel corso degli anni 70-80, mentre Gramsci sfonda invece un po' di più, ma tardivamente, negli Stati Uniti. Guardate bene, Lelio Basso era famosissimo a cavallo tra anni 70 e 80. Io ricordo quando è morto Lelio la intervista che fu fatta in televisione da Oscar Necht, che era all'epoca, come dire, l'esponente più importante della sinistra della teoria critica francofortese. Era un vero e proprio elogio di un militante che era anche un grande punto di riferimento per la sinistra in Germania. Sono cose che non vanno dimenticate, queste sono cose molto importanti. Ma perché? Perché il discorso di Lelio sulla sfera pubblica, la soggettività, i diritti, diceva ai tedeschi molto più di quanto non dicesse l'egemonia gramsciana. E chiudo con una considerazione molto molto molto molto, come dire, molto drastica. Io penso che dovremmo ripartire da qui, nel senso che dovremmo ripartire da una idea della sinistra che si forma attraverso pratiche che sono pratiche plurali, con esperienze diverse, nella convinzione che ho avuto modo di esprimere anche in altre situazioni, che, per usare il linguaggio di Lelio, non ci troviamo nella fase di formazione della Terza Internazionale, neanche della fase di formazione della Seconda Internazionale, ci troviamo in una fase molto simile a quella della formazione della Prima Internazionale, dove Marx si rivelò un maestro perché riuscì, senza, come dire, ghettizzare le logiche della sinistra in tante componenti, a tenere insieme soggetti diversi, dalla cultura più diverse, da Mazzini a Bakunin, a tutti quanti. Socialdemocratici tedeschi, c'è, cioè, questo inizio della socialdemocrazia, appunto, i Lassalliani, cioè teneva insieme un po' tutti le componenti della sinistra europea, tenendoli insieme attraverso un'organizzazione che in qualche modo sarà stata un assemblaggio di tante cose. Beh, che ha cambiato la storia del mondo. Tutto qui. Grazie mille Giacomo, credo che queste, da tutte le relazioni venga fuori davvero tutta la ricchezza della personalità di Lelio. E adesso tocca all'autrice. Se... C'è una richiesta di intervento, possiamo prima dell'autrice che parla sempre per ultima. Se è breve, bene. Facciamo così, penso che se oriento verso lì si può registrare, prego. Sì, parto dalla considerazione di Stefano Rodotà, cioè il mio basso, è giusto, che ognuno di noi qui presenti hanno a che fare con ricordi e sentono il dovere, io lo sento questo dovere, di testimoniare per esprimere la gratitudine nei confronti di Lelio Basso, dicendo due parole sulle riflessioni che voi ci avete aiutato a Lelio Basso è stato importantissimo nel mondo del diritto, io sono un giurista, ho insegnato all'università, ho conosciuto Lelio Basso, ho avuto modo di elaborare anche proposte insieme e credo che l'importanza di Basso sia stata notevolissima, soprattutto nel mondo dei giuristi, per avere con quella disposizione la formula di Massimo Severo Giannini, la proposta dello stesso Lelio Basso in Assemblea Costituente, nel dire che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di libertà e di eguaglianza, ha praticamente, secondo punti che poi sono stati affermati varie volte anche da Lelio Basso, ha, diciamo così, affermato che sono delle bugie tutte quelle che appaiono essere delle verità. Cioè è una bugia dire che tutti i cittadini sono liberi di manifestare il proprio pensiero, sono liberi di espressione, sono liberi di riunione, di associazione, di religione, perché se è vero che, come si dice nella stessa Carta Costituzionale, è necessario eliminare gli ostacoli che impediscono l'esercizio di questi diritti, significa che quelle sono delle affermazioni teoriche. Da quel momento è stato impossibile nelle relazioni delle libere docenze bocciare candidati nei quali facevano riferimento allo ius conditum. C'era negli anni 60 un principio fondamentale che il professore di diritto, per dimostrare le sue capacità, avrebbe dovuto parlare soltanto del diritto già esistente e non del diritto che avrebbe potuto venire. Nel momento in cui esisteva una disposizione normativa costituzionale gerarchicamente superiore alle altre che affermava che ancora bisognava operare per eliminare questi ostacoli, praticamente veniva posto un notevole punto fermo e una notevole novità nella elaborazione del metodo dello studio del diritto. Personalmente, qui voglio essere appunto veloce, ricordo quando negli anni 74 c'erano nelle scuole degli organi collegiali che indussero i genitori ad impegnarsi per contribuire all'evoluzione del lavoro scolastico, e tutte le liste di sinistra, si diceva, che si ispiravano ai principi della Costituzione, si ispiravano a questo principio. Quindi è stato importantissimo nel mondo della scuola. Gli insegnanti avevano subito, rapidamente compreso che il loro lavoro era cambiato dal momento in cui non avrebbero potuto non tener conto di quelli che erano gli ostacoli che impedivano di svolgere un lavoro didattico non tenendo presente quelle che erano le difficoltà per i bambini. E per arrivare ad una testimonianza più diretta, io ricordo quando Lelio Basso partecipò ad un convegno a Siena nel 1972, nell'ottobre e nel novembre del 72, ad un convegno per la revisione del concordato. E in quell'occasione ci fu una contrapposizione netta fra le due posizioni, l'una rappresentata dalla Cattolica, l'altra rappresentata dai professori di ispirazione liberal-democratica, e vi fu praticamente una notevole, diciamo, un'ispirazione completamente diversa. Inviterei tutti a leggere quella lettera scritta il 15 gennaio del 1978, e cioè il giorno prima della morte di Lelio Basso, del 16 dicembre. Lui è morto il 16 dicembre del 78. Il giorno precedente scrisse una bella lettera a Giuseppe Alberico per ringraziarlo del telegramma con il quale Alberico faceva i complimenti per il voto contrario in Parlamento alla revisione del concordato, alla proposta di revisione del concordato. E lui fu l'unico che votò contro la revisione del concordato in quella occasione. E Lelio Basso in questa bellissima lettera dice che lui non rinunciava ad ispirarsi a quella che era la vera utopia che era necessario raggiungere come obiettivo positivo, è quello di rendere uguali tutti gli esseri umani della Terra. I debiti di gratitudine sono tanti, da parte mia questo è soltanto un flash, grazie. Grazie a questa testimonianza di Sergio Laritza. Adesso la parola all'autrice. Innanzitutto grazie davvero tantissimo, in maniera non formale ma anzi anche un po' emozionata realmente. Quindi non guarderò davanti, ma solo il Tauro. E, cercherò di, insomma, due cose volevo dire rapidissime, che spero che appunto siano anche un po' una risposta alle domande che mi faceva Mariuccia, ma in fondo anche un po' al perché Basso, perché a me, o non so se io rappresento la mia generazione, è interessato Basso. E per farlo dico appunto due cose. La prima è che mi è capitato di rileggere, forse non è casuale, come Basso arriva a Rosa Luxemburg. La fonte, il tramite è Lukács. Allora ho riletto quel saggio bellissimo che Lukács scrive nel 1921, quindi negli anni proprio iniziali. Esatto. E ho scoperto, l'ho visto in una luce diversa, che poi è chiaramente la scoperta che parla del perché per me l'Elio Basso è così attuale e ha una sua freschezza, oserei dire. Ed è la seguente ragione, che Basso trae da Lukács, che legge Rosa Luxemburg, scusate la catena, è chiaro una catena genealogica di interpretazioni, coglie come metodo, il metodo che è nel punto di vista, scrive, della totalità. Ovvero il fatto che la considerazione di tutti i momenti parziali scrive come momenti dell'intero. Ecco, io credo che questo sia un punto centrale, questo elemento della totalità, dell'intero. Perché? Innanzitutto perché da questo derivano una serie di cose. La prima, come Basso, poi da grande, quando scriverà Socialismo e Rivoluzione, legge Marx e legge il Marx soprattutto del Capitale, quello che lui preferisce, quello poi arriva a dire lui, quello che è maturo, e appunto l'analisi di Basso si incentra soprattutto su un'analisi critica nei confronti chiaramente del capitalismo e della separazione del produttore dal processo complessivo di produzione, e da lì tutto il discorso che Basso fa sull'atomizzazione prodotta dal capitalismo, che poi forse è il motivo per cui piaceva anche tanto in Germania, cioè con dei punti di fortissima sintonia con le analisi anche francofortesi. L'altra cosa che ne discende è un'idea del diritto, ma anche della storia, che non visti in maniera autonoma rispetto appunto allo sviluppo della società come totalità, per l'appunto. E di qui anche il tema poi della che giustamente voi avete tutti ribadito, dell'importanza della concezione del soggetto, appunto quello che noi chiameremmo oggi in linguaggio più così i processi di soggettivazione, il soggetto che per Basso è chiaramente la classe operaia come per Marx, perché è classe universale, cioè portatrice della liberazione di tutti, dal punto di vista della totalità. Ecco, dico questo perché da questo dico due cose. La prima, che pensando a questo, chiaramente, forse anche una risposta a Mariuccia, è la necessità per Basso e forse anche per la mia generazione di una rivoluzione, uso anche consapevolmente questa parola, sociale, nel senso di una trasformazione totale della totalità della società. Cioè è l'alternativa. Io credo che Basso offra una chiave per veramente immaginare un'alternativa e questa alternativa appunto è una trasformazione, dicevo, totale della totalità della società, non è una parte soltanto, E nel pensare a questo, chiaramente è l'idea poi di una ricomposizione, del ripensare i valori comuni, appunto della convivenza comune. Basso non pensa mai così quando pensa all'uguaglianza, pensa al soggetto unitario, pensa all'uguaglianza, ma non neutralizza mai le differenze, la differenza. Anzi, l'uguaglianza è la condizione di diversificazione della libertà. Questo è che poi precipita nella persona, no? Per cui, e questo a mio parere lui lo scopre negli anni 30, per questo quei saggi, a me i saggi che più mi sono piaciuti, se posso scegliere, ognuno sceglie, sono quello su Dostoevskij e quello sulla Comune di Parigi, anni 30 e anni 70, i miei anni preferiti. Perché no, ho sempre parlato gli anni 30 e gli anni 70, perché quello su Dostoevskij è la scoperta della, appunto, della persona in quanto essere relazionale, non appunto non, che non ha un fondamento nella natura per l'appunto, ma nelle relazioni sociali e nella ricchezza e particolarità e singolarità di ciascuno per l'appunto. E poi quello sulla Comune è una, come dire, scoperta della Comune come momento più rivoluzionario della storia della urbana, come appunto rifondazione e autogoverno degli esseri umani, che chiaramente trae da Marx, ma lui dà una lettura anche nuova, suggestiva rispetto alla Comune di Parigi. E questo lo dico rispetto al fatto che a mio parere in Basso c'è questa dimensione, forse novecentesca, non lo so, ah certo, certamente novecentesca, ma prospettica, cioè prospettiva, è un pensare in prospettiva. Mi è venuto in mente, pensando a questo, per questo che a me piace, a uno dei titoli che io reputo i più belli che abbia mai, diciamo, di un libro, che è un libro recente di Rossana Rossanda, che è Quando si pensava in grande. Io trovo che sia un libro, un titolo commovente, e mi è venuto in mente pensando esattamente a questo. E da qui anche l'idea di come Basso pensa al diritto, ai diritti, appunto, non c'è una visione statica del diritto, ma è sempre rispetto come campo di tensione, il rapporto ai rapporti di forza della società. E qui avete detto tutto voi benissimo su appunto la sua visione processuale del cambiamento, il rapporto appunto tra riformismo e rivoluzione, tutta la sua tesi che lui riprende sulle due logiche contraddittorie da Rosa Luxemburg, che attraversa profondamente poi la riflessione e l'impegno costituente. D'altra parte, dico un'ultima cosa, in fondo anche Basso rispecchia questo metodo dal punto di vista della totalità, che poi è molto legato all'unità dialettica tra teoria e prassi, tra pensiero e azione. Lo rispecchia, in fondo è stata l'incarnazione, perché è in ogni ambito, partito, attività di giurista, anche come avvocato, che è stato importantissimo negli anni 50 insieme a Terracini, oltre che naturalmente di costituente, animatore, uno di quelli che ha inventato il tribunale Russell, filosofo, agitatore antifascista, insomma ha ricoperto veramente tutti i campi, diciamo, giornalista anche, e questo appunto credo che sia, insomma, questo è anche il motivo per cui Lelio Basso per me parla ancora ed è ancora utile. E l'ultima cosa che volevo dire rispetto alla giusta domanda di Mariuccia, ma com'è che lui, non ci sono molti scritti in quegli anni che parlano delle istituzioni, della Costituzione, eccetera, eccetera. No, io credo che Basso lo scopre, lo valorizza lì dentro, capisce il senso del lavoro nella Costituente. Allora ferma tutto, si ritrae dal partito e si butta in questa nuova impresa, e poi forse scopre anche dopo il valore della Corte Costituzionale. In fondo lui, forse se uno gliel'avesse chiesto precedentemente, non avrebbe mai voluto, però non ci pensava, questa sua appunto accanita invece lotta per entrare come giudice costituzionale, forse anche per proprio legato poi a tutto questo discorso. Qualcuno dovrà applicare. Quindi la bizzarria. E quindi appunto questo punto, e non a caso Basso si fa aiutare da Massimo Zero Giannini. Devo dire, vi svelo con una certa orgoglio, non per me, per Basso, che recentemente Cassese ha scritto un saggio su Massimo Severo Giannini. Giannini non era dentro la Costituente, era prima. Sabino Cassese sta pubblicando un articolo, un saggio su Giannini Costituente, che non esisteva, era un capitolo abbastanza rimosso di Giannini, e appunto chiedendomi il rapporto tra Giannini e Basso, e appunto dicendo forse non avevo mai capito quanto i due fossero, come ha scritto Stefano Rodotà, compagni di strada. E questo è una cosa... Basso con Giannini. E questo, quindi insomma, questo è tutto. Grazie. Grazie.